Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Terrorismo islamico, 5 ordini di arresto a Torino, ma per questioni procedurali non possono essere eseguiti. Slitta di una settimana il voto sulla manovra, in corso il voto di fiducia per il decreto fiscale. Polverizzati i record di asta, Salvator Mundi di Leonardo da Vinci battuto per 450 milioni di dollari. Carige salta in consorzio per l'aumento di capitale, nuovo consiglio della banca per il prezzo. Saltato Ventura si guarda ad Ancelotti mentre Tavecchio resta al suo posto. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per gli SMS. Oggi non abbiamo la disponibilità di WhatsApp, siamo in diretta ai nostri studi di Roma e WhatsApp è disponibile solamente su Milano, e quindi scriveteci con i buoni vecchi SMS. Dovremmo avere invece la diretta Facebook sulla pagina di Radio 24 e sulla pagina di Effetto Giorno. Abbiamo dall'altra parte del vetro Valerio Rocchetti in regia qua a Roma, Roberta Frisani in regia a Milano, Laura Faggini in assistenza in redazione. Iniziamo dunque, iniziamo dal caso che avete sentito nei nostri titoli, il caso di Torino, con questi 5 sospetti terroristi che non possono essere arrestati. Accusati di vicinanza al califfato, ma per ora per loro niente arresto. Sono questioni procedurali ad impedire al momento la cattura di alcuni tunisini accusati di terrorismo internazionale dalla procura di Torino. Si tratta di un gruppo di 5 giovani individuati dai carabinieri del ROS a partire da un'inchiesta sull'università Sabauda e sulle false dichiarazioni presentate da studenti stranieri per ottenere permessi di soggiorno. Indagando su questo filone sono stati individuati i profili sospetti di questi 5 tunisini, alcuni dei quali iscritti alla Ateneo, poi trasferitisi a Pisa. 3 in realtà sono già ai domiciliari per droga, 1 è stato espulso invece l'anno scorso, resta dunque a piede libero solo 1. Le ordinanze di custodia cautelare avallate ora dal riesame non sono però eseguibili, in quanto gli indagati possono ancora ricorrere alla Cassazione. Già a maggio il PM Andrea Palladino aveva chiesto il loro arresto, ma il GIP lo aveva respinto, mentre ora i giudici dell'ex Tribunale della Libertà accolgono l'istanza, che però resta ancora sulla carta, nonostante l'accusa pesante di terrorismo internazionale. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Veniamo adesso a questa incredibile asta, 450 milioni di dollari, questo il valore di Salvator Mundi di Leonardo. A Christie's, 400 million dollars is the bid and the piece is... Il dipinto Salvator Mundi di Leonardo da Vinci è stato venduto in asta da Christie's a New York per 400 milioni di dollari, che sono diventati 450,3 milioni con tasse e diritti di vendita. È così l'opera d'arte più costosa della storia. Finora il record di vendita di un'opera d'arte apparteneva ad Interchange di De Kooning, venduto nel settembre del 2015 per 300 milioni di dollari. Il dipinto del genio toscano, che ha polverizzato le 60 ultime cene di Andy Warhol, venduto per 56 milioni di dollari senza i diritti d'asta, ha una storia controversa. L'attribuzione di Salvator Mundi non è infatti univoca, in quanto alcuni vi vedono l'inconfondibile mano di Leonardo, mentre altri ritengono che l'opera sia stata realizzata da un suo discepolo, Giovanni Boltraffio. La sessione di vendita da mozzafiato da Christie's è durata 19 minuti. È stato un grande momento per noi e credo per tutto il mercato dell'arte, ha commentato Cerutti, il direttore generale di Christie's, per la quale il dipinto sarebbe l'ultimo di Leonardo ancora in mani private. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Veniamo alla politica economica che viaggia ancora oggi tra i richiami di Bruxelles, le dichiarazioni di ieri e di oggi del ministro dell'economia Padoan, la manovra che slitta di una settimana, il decreto fiscale che va al voto di fiducia. Vincenzo Miglietta, ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Partiamo, Simone, dai tempi parlamentari all'ora della legge di bilancio. Il testo arriverà in aula il 27 novembre, non il 21, vi è dunque uno slittamento di una settimana e i lavori in commissione bilancio non stanno andando spediti come ci si poteva aspettare, di qui la scelta dei capigruppo. Ricordiamo brevemente i pilastri della manovra: sgravi per le assunzioni degli under 35, conferma dei superammortamenti, risorse per il rinnovo del contratto degli statali, nuove risorse per il fondo contro la povertà, più spazi di spesa per gli enti locali. Occhi puntati sempre a Palazzo Madama, lo anticipavi questa mattina sul decreto fiscale. Il governo ha chiesto la fiducia, la prima chiama inizierà a momenti, si sono espressi intanto per il no tutte le opposizioni. Interessanti alcuni dati che emergono dalla relazione tecnica che accompagna il provvedimento: la riduzione dell'imponibile IRPEF, prorogato al 2020 ed introdotto nel 2016, ha permesso un rientro in Italia di quasi 6.000 ricercatori, i cosiddetti cervelli all'estero. Ed ancora, la rottamazione bis aperta anche alle vecchie cartelle dovrebbe portare in cassa circa 209 milioni di euro. Sempre questa mattina, intanto, sul momento economico del paese è tornato il premier Gentiloni, che ha detto la stabilità e la crescita dell'Italia vanno al di là di questa o quella situazione politica, ma sono basate sulla capacità e sul lavoro. Polemico forse con l'Europa il ministro dell'economia Padoan, che ha commentato pochi minuti fa: la finanza pubblica sta migliorando e questo è un fatto, la confusione tra fatti e illazioni sta diventando insopportabile. Simone. Grazie a Vincenzo Miglietta per questo aggiornamento. Veniamo alla politica vera e propria, con la tensione che continua a concentrarsi su quello che succede all'interno del centro-sinistra, della sinistra e del centro-sinistra. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno. Sull'alleanza di centro-sinistra interviene stamattina Walter Veltroni, che si schiera per una coalizione unita formata da persone che hanno valori e idee comuni. Se si continua sulla strada della divisione, sostiene il primo segretario PD, il rischio è che si crei in una Margherita dal lato e un DS bonsai dall'altro. Sul fatto che i presidenti delle Camere esprimano posizioni politiche non ha nulla da dire, dice ancora Veltroni, ma in questo momento abbiamo bisogno di costruttori e non di polemiche che accentuano le divisioni. C'è poi il tentativo dell'ultimo segretario DS, Piero Fassino, chiamato a fare da pontiere con la sinistra nel PD. Questa mattina Fassino ha incontrato Romano Prodi, un dialogo incoraggiante con Prodi, che apprezza l'iniziativa di una comune strategia del centro-sinistra. E sul tavolo il segretario PD Matteo Renzi apre ad MDP su ius soli, su biotestamento, ma anche sul lavoro e pensioni. Sull'articolo 18 infatti è previsto un emendamento alla manovra che aumenti l'indennità dei licenziati. A te, Simone. Grazie ad Elisabetta Fiorito anche a lei per questo aggiornamento. Politica che si concentra anche sulle elezioni ad Ostia, che si avvicinano. I riflettori restano puntati su Ostia, a 3 giorni dal ballottaggio per il rinnovo del municipio commissariato per infiltrazioni mafiose. Oggi pomeriggio ci saranno anche le vincitrici del primo turno, le candidate di Movimento 5 Stelle e Centrodestra, alla manifestazione organizzata dall'Associazione Libera e dalla Federazione Nazionale della Stampa, il sindacato dei giornalisti. Un'iniziativa per dire no alla mafia e a difesa della libertà di informazione, indetta dopo l'aggressione alla Troupe Rai del programma Nemo da parte di Roberto Spada, esponente dell'omonimo clan, che per questo è finito in cella. A differenza del corteo di sabato scorso, alla manifestazione parteciperanno anche esponenti del Partito Democratico, a partire dal governatore del Lazio Zingaretti. Gli unici assenti saranno invece i rappresentanti di Casa Pound, la formazione di estrema destra che dopo il 9% ottenuto al primo turno è finita al centro delle polemiche per il sospetto di aver ottenuto voti orientati proprio dal clan degli Spada. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. È saltata la costituzione del consorzio di garanzia per l'aumento di capitale da 560 milioni di euro di Banca Carige. Lo ha annunciato il gruppo, ancora in corso, il CDA straordinario. Che la situazione sia attesa da giorni non è una novità. Il motivo? Il prezzo a cui emettere le nuove azioni della banca genovese, pronta nelle prossime settimane a chiedere al mercato 560 milioni di euro, terzo aumento di capitale in 4 anni. Questa mattina la notizia: Deutsche Bank, Credit Suisse e Barclays non sono più disposte a garantire la ricapitalizzazione di Carige. Immediata la convocazione del consiglio di amministrazione e la sospensione del titolo, arrivato al minimo storico di 14 centesimi. Nelle prossime ore l'amministratore delegato verificherà l'esistenza dei presupposti per il proseguimento del piano di risanamento e per una eventuale proroga dell'aumento di capitale, fa sapere la società. Proprio ieri l'azionista Spinelli ha chiesto ai piccoli e grandi azionisti, genovesi e non, di partecipare all'aumento per aiutare gli attuali soci Malacalze e Volpi a risollevare le sorti della banca. Banca che, ricordiamo, negli anni ha dovuto fare i conti con pesanti inchieste giudiziarie e con l'arresto dell'ex presidente Bernardino Neschi. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sono di oggi le nuove parole del Papa sul fine vita. È moralmente lecito rinunciare, dice, all'applicazione di mezzi terapeutici o sospenderli quando il loro impiego non corrisponde a quel criterio etico e umanistico che verrà in seguito definito proporzionalità delle cure. Francesco lo dice nel messaggio al convegno sul fine vita promosso dalla Pontificia Accademia, invocando un supplemento di saggezza. Papa che è intervenuto oggi anche sul cambiamento climatico in un messaggio questa volta inviato al vertice sui cambiamenti, che sembra destinato a concludersi in un nulla di fatto. Negazione, indifferenza, rassegnazione, fiducia in soluzioni inadeguate sono, secondo il Papa, atteggiamenti perversi che non aiutano la ricerca onesta. Ma vediamo di fare il punto su questo vertice. Domani sarà la giornata conclusiva di COP23 a Bonn, nella quale hanno parlato 150 ministri, 25 capi di Stato. Il punto è sempre quello: impedire che entro la fine del secolo l'aumento della temperatura media globale superi 2 gradi centigradi rispetto al periodo pre-industriale. Una conferenza sul clima da cui si dovrà uscire con un documento che renda operativi gli impegni di Parigi. In particolare si spingerà sul ruolo degli attori non statali, dalle imprese alle città, dagli investitori ai governi. Intanto l'Unione Europea ha preso accordi provvisori sul nuovo assetto del mercato delle emissioni, uno dei pilastri delle politiche europee sul clima. Per essere definitivo, questo accordo dovrà tornare in Consiglio per ottenere l'ok dei rappresentanti dei singoli paesi. In questo caso la partita si giocherà soprattutto col blocco dell'Est, che ancora oggi ha il carbone come prima fonte energetica. Insomma, la strada è lunga e spesso tortuosa se si pensa ai ranghi sciolti con cui si presentano gli Stati Uniti, ufficialmente con una delegazione che promuove l'intervento di rappresentanti dell'industria del carbone e una delegazione ombra guidata da Bloomberg e dal governatore della California Brown, che si impegna a rispettare gli accordi di Parigi. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le denunce di molestie arrivate al regista Fausto Brizzi. Ha parlato nelle scorse ore la moglie del regista, Claudia Zanella, dicendo: mi addolora molto ascoltare accuse perché non corrispondono in nessun modo alla persona che conosco. Non trovo affatto corretto per nessuno essere descritto come il peggiore dei criminali. Così appunto la moglie del regista. Adriana Fracchia ha chiesto un commento sulla vicenda al regista Pupi Avati. Mi sembra di essere tornato agli anni 50. Queste molestie accadevano negli anni 50. Cioè, questo caso del povero Fausto Brizzi, crocifisso e pretesto per fare ore e ore di programmi su tutti i media, su tutti i giornali, ecco, è una mosca bianca. Infatti stanno cercando altri e non li trovano, disperatamente. Mentre negli anni 50, 60, quando ho cominciato a fare il cinema io, questo era diffusissimo. Questo non si scandalizzava nessuno. Forse perché le donne non avevano voce. Segno anche della necessità dei media di trovare qualcosa da dire, da scrivere e da occupare ore di palinsesto. Le questioni della nazionale di calcio: Ventura se ne va, resta Tavecchio, ma per quanto? Chissà se il nostro Carlo Genta è in grado di rispondere. Ciao Carlo, buongiorno. Ciao signora, ma sei matto, non ne ho idea. Rimane Tavecchio, ma era già, insomma, abbastanza scontato fin da ieri. Rimane Tavecchio anche per assenza di alternative, anche perché le varie componenti del calcio non hanno insistito più di tanto su un atto che sarebbe stato soggettivo, cioè quello delle dimissioni dell'attuale presidente federale. Non c'erano altre soluzioni pronte, dunque resta Tavecchio. Ricordiamo, dal punto di vista tecnico, tecnico-giuridico, la Federcalcio non è commissariabile, lo sarebbe stata in caso di dimissione di Tavecchio. In quel caso il vicepresidente vicario Sibilia, che è presidente dei dilettanti, sarebbe stato presidente pro tempore, però sono tutti scenari che comunque non si sono verificati. Dunque Tavecchio resta, Ventura no, è stato dimissionato ieri ufficialmente, ora prenderà i soldi che gli spettano dalla Federcalcio, scatta la caccia ad un nuovo commissario tecnico. Ovviamente Ancelotti è su tutte le pagine di tutti i giornali e in cima alle preferenze di ogni sondaggio. Poi si tratterà di vedere se Carletto accetterà questo incarico che il popolo tutto intero vorrebbe affidargli. È chiaro che non è solo questione di commissario tecnico, è chiaro che si parte per un viaggio lungo, perché ricordiamo che per circa un anno la nazionale di calcio conterà poco o nulla dal punto di vista degli impegni agonistici. Sono previste due tristi amichevoli premondiali, mondiali in cui andranno gli altri, E quindi c'è il fattore tempo è favorevole per operare scelte di questo tipo. Poi, insomma, sono tutti scenari da definire. E Tavecchio rimane lì, sì. Tu, anche in questo caso l'intero popolo italiano avrebbe visto volentieri fuori delle dalla porta come Ventura, certo, quel giorno, sì. Davanti allo spogliatoio dei suoi giocatori. Invece, insomma, lo scenario è questo. Del resto le dimissioni in questo paese sono sempre una cosa complicata, quantomeno. Grazie Carlo, ti ritroviamo alle 14 dopo il genere delle 14 in tutti i convocati. Veniamo all'assegnazione di oggi del premio Gamma Donna. Giocano tutte nello stesso campo, il digitale, e così le imprese al femminile tracciano la strada per tutte le piccole e medie imprese. Secondo i dati Union Camere, Infocamere di settembre, in Italia su un totale delle imprese femminili 4 su 10 sono nate dopo il 2010, seguidate da uomini solo 3 su 7 hanno meno di 7 anni, e il 12% delle imprenditrici è under 35. Digitalizzazione cruciale e trend confermato dalle 52 candidate. Per l'80% imprese con meno di 10 anni, anche per il premio Gamma Donna, giunto alla nona edizione. Tra le 6 finaliste ha vinto la storia di un'imprenditrice che ha deciso di ribaltare in azienda le priorità e portare il cambiamento climatico tra le voci di bilancio. Betta Maggio, CEO e amministratore unico di YouHeart. Inseriamo un sistema biotecnologico che è come una piccola foresta concentrata di 276 querce ogni 100 metri quadri. Se entri lì dentro, c'è l'aria pulita. Ma c'è una ricetta che riguarda tutte le PMI. Un cambiamento, questa volta culturale, come spiega Carlo Robiglio, vicepresidente del Sole 24 Ore. Cultura d'impresa vuol dire essere consapevoli per i piccoli imprenditori che bisogna mettersi completamente in discussione, ma soprattutto crescere in formazione, in competenze, in capacità, e Industria 4.0 è lo strumento. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. Adesso andiamo a sentire cosa succede sulle strade, ci ritroviamo subito dopo, iniziamo il nostro Giro d'Italia. Inizieremo, tratteremo parecchio l'argomento nella puntata di oggi, parleremo di immigrazione, perché dovremo necessariamente tornare a Cona. Ci siamo stati solamente 2 giorni fa e ve l'avevamo detto e avevamo raccontato con la voce del sindaco in quale situazione si trovassero quegli oltre 1000 migranti ammassati all'interno di una tendopoli senza nessun livello di sicurezza e francamente nemmeno di umanità, comunque la pensiate, sulla questione dei migranti. Ebbene, ovviamente la situazione è esplosa, ci sono state 150 persone che sono uscite da questa specie di tendopoli e sono andate sulle strade in una sorta di marcia verso Venezia, e una di loro è stata investita ed è morta ed ha perso la vita. E poi a Gorizia, dove c'è un'altra situazione paradossale, sotto una galleria decine di persone che dormono, una galleria nella quale passano le macchine, ad un passo dal centro, in attesa che una commissione si pronunci sul diritto d'asilo, ma senza il minimo di accoglienza, nel pieno degrado, aiutati solo da qualche volontario. Questo il quadro, che ha a che fare molto più che, insomma, non solamente col tema dell'accoglienza, ma col tema proprio di come gestiamo questa situazione. Di questo parleremo tra poco, dopo il traffico. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, sempre 349-238-6666 per gli sms e sempre la diretta sulla nostra pagina Facebook. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato di terrorismo, dei 5 ordini di arresto a Torino che non sono stati eseguiti per questioni procedurali, del voto sulla manovra e sul decreto fiscale, di questa maxi asta da 450 milioni di dollari per Salvatormundi di Leonardo, di Carige è saltato il consorzio per l'aumento di capitale. Come avete sentito, abbiamo parlato anche e ancora della nazionale. Adesso iniziamo il nostro Giro d'Italia. Prima di aver dato un paio di risposte agli ascoltatori, no, non si sa chi ha comprato il dipinto di Leonardo. Spesso rimangono segreti gli acquirenti di queste opere. È stato un dipendente di Christie's, sostanzialmente di Christie's, per conto di un acquirente presidente, che al momento ovviamente rimane anonimo. Paola ci chiede di ripetere in modo più chiaro le parole del Papa sul fine vita. Ha detto il Papa, sostanzialmente stringendo, che evitare l'accanimento terapeutico non è eutanasia. Serve saggezza, dice Francesco, perché oggi è più insidiosa la tentazione di insistere con trattamenti che producono effetti ma non giovano al bene della persona. Veniamo adesso a trattare di quelle che consideriamo due vergogne italiane. E sono due vergogne italiane che hanno a che fare con il tema dell'accoglienza e dell'immigrazione, e più in generale della gestione dei migranti e dei profughi. Comunque la pensiate, cioè che voi la pensiate, che pensiate che queste persone non debbano nemmeno entrare nel nostro paese, che pensiate che siate per l'accoglienza a tutti i costi, in qualsiasi modo la pensiate, nel momento nel quale ci sono 1000 persone che si trovano sul nostro territorio e vengono ammassate in una tendopoli come a Cona, nel momento nel quale ci sono decine di persone sotto una galleria accanto alla quale passano delle macchine, vi invito ad andare a guardare le foto della galleria Bombi di Gorizia per vedere qual è la situazione, qual è la condizione. Questo non è accettabile. Anche per gli appelli che sono stati rivolti al Ministero per gestire queste cose meglio, semplicemente gestirle meglio. Queste persone sono sul nostro territorio, in qualche modo questa cosa va gestita. Iniziamo proprio da Gorizia e poi torneremo a Cona, che come sapete è un tema sul quale, una questione sulla quale torniamo spesso. Giannino Busato è un medico, 10 anni di Uganda come medico del Kuam, poi Sudan, Mozambico, Zambia, primario di anestesia e rianimazione presso l'ospedale di Gorizia, ed è una delle persone che praticamente tutte le notti va là in questa galleria Bombi a cercare di capire come stanno queste persone. Busato, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. E la situazione quale, ce la può descrivere gentilmente e sinteticamente? Sinteticamente, la galleria Bombi è una galleria che fa nord-sud, immagina il vento, sotto il castello di Gorizia, freddo e umido. Chi c'è dentro? Dentro ci sono afghani e pakistani, tutti uomini, tutti sans papier, perché Gorizia ospita altri 300 circa persone nelle strutture della diocesi, messe a disposizione della diocesi, più o meno bene direi, va bene. Invece questi qui sono dei sans papier, non hanno un pezzettino di carta. In realtà arrivano probabilmente da tutta Europa, da quelle che riusciamo a capire, dalla Norvegia come dalla Grecia, e sono qui in attesa di mettere l'impronta digitale su un pezzo di carta in italiano. Senza di questo non riescono neanche ad avere un minimo di assistenza sanitaria. Ma perché, mi spiega una cosa Busato, perché si trovano proprio in Italia? Perché convergono a Gorizia da tutti questi luoghi in Europa? Perché a Gorizia c'è quell'unica e abbastanza ristretta commissione che dovrebbe dare appunto il pezzetto di carta con l'impronta digitale sopra. E dove con la commissione dopo riescono ad avere, a essere selezionati per avere eventualmente un permesso di soggiorno. Arrivano qua. Arrivano là a Gorizia e in parte, come si dice, si riversano all'interno di questa galleria. Ovviamente dove vivono? Sopra delle coperte, le foto sono abbastanza chiare, no? Sopra delle coperte, con dei cartoni e via dicendo, e voi di notte andate a dare una mano a queste persone, a sincerarvi molto semplicemente di come stanno. Ecco, per fortuna si tratta di tutti quanti di uomini, sono in media 130, arrivano comodamente a 160. Tra l'altro, proprio per la storia della commissione, c'è un grosso turnover, va bene, probabilmente calcoliamo un 30-40 a sera facce nuove, va bene, alla fine, vuol dire che alla fine della settimana sono passati di facce nuove, ce ne sono 200-300. Cosa siamo forse una decina di volontari, questo è molto importante. Volontariato si è abbastanza. Ma Busato, ma il Ministero dell'Interno questa cosa la sa oppure no? Chissà, non so, io non so niente. Io so che l'unica cosa, chi lo sa è sicuramente il sindaco, il quale sindaco ha definito noi iatture. No, ecco, la cosa triste, dopo tanti anni di Africa, io e mia moglie, va bene, abbiamo vissuto in Africa quando la gente ci batteva una mano sulla spalla e ci diceva oh che bravi, e ci dava magari le 100 o le 100.000 lire per tirare avanti col nostro ospedaletto in Africa. Qui la gente ci detesta. Il sindaco ha definito noi iatture, e questa è una cosa che per me, 83 anni, diventa una cosa sconvolgente. Noi siamo qui a favorire l'arrivo di questa gente, e noi dovremmo non esserci, perché se questa gente sta male probabilmente non arriva più. Sarebbe come a dire che siccome trovo io medico per strada un motociclista che si è catapultato, non mi fermo ad assisterlo. Perché? Perché così gli altri motociclisti impareranno che bisogna andare per la strada con prudenza. Questo è. La ringrazio. Grazie a Giannino Busato per la sua testimonianza e per averci consentito di aprire una finestra su questa galleria, Galleria Bombi di Gorizia, sulla quale piano piano si sta anche concentrando l'attenzione. Là, voglio dire, pensare che queste persone vadano là solamente perché ci sono 10 persone che di notte le aiutano e le curano, mi sembra un po' curioso. Alberto Panfilio torna da noi, sindaco di Cona, ormai ci sentiamo due volte a settimana, e questa volta per un episodio triste. Due giorni fa avevamo raccontato con lui di una situazione ancora difficile, di questa specie di tendopoli, questa sorta di tendopoli che c'è proprio là a Cona, sul territorio di Cona, e siamo in Veneto. C'è stata, è partita oggi una protesta, una sorta di marcia di questi migranti per la dignità, cioè non sappiamo esattamente, per avere una condizione che fosse lievemente migliore, perché sono state tolte anche le stufette. Uno di loro è stato investito e ha perso la vita. Panfilio, siamo stati purtroppo facili profeti l'altro giorno, no? Sì, purtroppo sì, anzitutto buongiorno. Era facile esserlo per quello che stava succedendo. E dunque la cronaca ci racconta di un fatto luttuoso, di una morte di una persona, ma è successo a Codevigo, e proprio facendo un riferimento storico dell'eccidio di Codevigo dell'aprile 45, dove che c'è stata un'esecuzione sommaria di civili, invece a Codevigo possiamo dire oggi che c'è l'eccidio invece della dignità umana, perpetrato da 2 anni e mezzo da un'azione governativa a dir poco censurabile. E gli unici a protestare con tutto ciò sono chi la sta pagando in prima persona, e dunque hanno cominciato questa marcia che vuole essere proprio una comunicazione al mondo di quello che sta succedendo e che nessuno se ne sta occupando. Questo stanno facendo. Purtroppo li stava raggiungendo questo ragazzo in questo argine. La cooperativa da anni, io dico, di fornire dei giubbetti catarifrangenti visibili, l'ho segnalato alla prefettura più volte e non viene fatto. Dunque le responsabilità di tutto questo sono in carico a chi ha potuto eseguire degli ordini del genere, governo, e a tutti quelli che si sono girati dall'altra parte non condannando questo eccidio della dignità umana. E cito anche la Chiesa, per cortesia, che fino ad oggi non si è spesa con una sola parola per condannare questa tendopoli qua. E si riferisce anche alle parrocchie locali, immagino, al vescovo e via dicendo. A tutti, dovevamo fare gruppo, perché io vorrei dire, chi alza la mano che è favorevole che l'accoglienza sia fatta in questo modo indegno? Alzi la mano, ovviamente nessuno. Allora, se siamo tutti contro, vediamo chi ha fatto qualcosa, e lì ovviamente stendiamo un velo pietoso. Nessuno ha fatto nulla, perché è convenuto a tutti quello che è successo a Cona, ha liberato del problema gli altri sindaci, gli altri territori, il governo ha pensato, ho trovato un magazzino, lì vado ad ammassare lì, e buonanotte al secchio. Sì. E tutto viene dimenticato. Noi facciamo per conto nostro quello che possiamo, ossia dare voce a quello che succede, accendere i riflettori. Grazie ad Alberto Panfilio, sindaco di Cona, appunto provincia di Venezia. Noi ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, ci ritroviamo subito dopo e ricominciamo il nostro giro d'Italia. E ci spiace, ma oggi sembra quasi che ce l'abbiamo col Viminale, sembra quasi che ce l'abbiamo col Ministero dell'Interno, perché subito dopo ci occuperemo di una sentenza che ha riguardato il Ministero dell'Interno. Molto ci siamo occupati nei giorni scorsi delle occupazioni abusive delle case, in particolare a Roma. Che cosa è successo? Che il Ministero dell'Interno è stato condannato a pagare i proprietari di una casa, di uno stabile a Tormarancia, e siamo appunto a Roma, perché? Perché non l'ha sgomberato, e il costo di 260.000 euro al mese andrà in carico proprio al Ministero dell'Interno per la sua omissione, per la sua mancanza di azione nello sgombero di questo palazzo. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezzi, i nostri titoli: terrorismo, 5 ordini di arresto a Torino per questioni procedurali non possono essere eseguiti. Slitta di una settimana il voto sulla manovra, in corso la chiama per il voto di fiducia per il decreto fiscale. Polverizzati i record di asta, Salvator Mundi di Leonardo da Vinci battuto per 450 milioni di euro. Carige salta il consorzio per l'aumento di capitale, nuovo consiglio della banca per il prezzo. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, due ascoltatori quasi contemporaneamente via sms al 349-238-6666, mettono, e uno ci scrive da Firenze, Aldo, un altro da Merate, Piero, paragonano queste situazioni, forse un po' troppo, le situazioni che abbiamo raccontato poco fa con i campi in Libia, le situazioni di Gorizia e di Cona, forse è un po' troppo, certo, è oggettivamente una situazione inumana, tanto quella di Gorizia quanto quella di Cona. Come si diceva, adesso andiamo su un tema del quale anche qua ci siamo occupati spesso, ed è quello delle occupazioni abusive a Roma, che sono una vera emergenza. In realtà il tema è italiano in genere, e però a Roma c'è una concentrazione di occupazioni abusive particolarmente forte, e c'è stata ieri una sentenza che è stata resa nota da Confedilizia, e siamo in linea con il presidente Giorgio Spaziani Testa. Buongiorno presidente, benvenuto. Buongiorno, grazie. Ed è una sentenza che ha a che fare appunto con il Viminale, come già si diceva prima. In sostanza mi sembra di aver capito che il tribunale stabilisca, Spaziani Testa, che Viminale, il Ministero dell'Interno, è colpevole di omissione, ossia paga per non aver fatto sgomberare un palazzo occupato abusivamente. Ho capito bene? Ha capito benissimo, è esattamente così. Per la prima volta, per quanto consta, come si dice in questi casi, ma lo dice anche il giudice che ha firmato la sentenza, per la prima volta viene stabilito che per questa inerzia, cioè per il fatto che in questo caso addirittura dal 2013 un immobile occupato abusivamente non è stato liberato dalla forza pubblica, comunque quindi dallo Stato, e quindi non si è ritornati alla legalità, per questo motivo lo Stato, in questo caso il Ministero dell'Interno, deve risarcire il proprietario, e deve risarcirlo con una somma mensile che stabilisce la sentenza terminerà di essere dovuta al momento della liberazione dell'immobile. Quindi è importante dato che l'immobile l'immobile non è stato liberato, tra l'altro non è stato ancora liberato, e si tratta di un immobile molto grande, che è di una società in questo caso, e si può calcolare che se fosse liberato domani mattina, come non avverrà, il costo per il Ministero dell'Interno, per l'erario e quindi per i contribuenti, sarebbe di circa 10 milioni di euro, perché era un immobile molto grande, e questa cifra, che è di oltre 250 mila euro al mese, è data dal mancato reddito che quel proprietario avrebbe potuto ritrarre dal bene. La spaziale testa è potenzialmente esplosiva questa sentenza, perché... Potenzialmente esplosiva, assolutamente. Perché potrebbe riguardare tanto il Ministero dell'Interno quanto anche gli altri enti che sono coinvolti negli sgomberi. Penso per esempio al Comune di Roma, visto che è di Roma che stiamo parlando, no? Qui la responsabilità del Ministero dell'Interno, poi le cose potranno variare in successiva giurisprudenza, è stata individuata perché l'obbligo, diciamo, della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica è in capo alla forza pubblica, alla polizia e alla fine alla competenza del Ministero dell'Interno, quindi presumibilmente sarebbe sempre individuato il Ministero dell'Interno più che il Comune, ma è esplosiva, come lei giustamente diceva, perché per la prima volta viene stabilito che a livello civilistico, diciamo così, nei rapporti privati, quindi ai sensi di uno specifico articolo del codice civile, che è quello che tutela il danno, diciamo che risarcisce il danno provocato al privato, ecco, viene individuato nel Ministero dell'Interno e quindi nello Stato il colpevole, tra virgolette, di una mancata soluzione di un problema che crea un danno patrimoniale, come è evidente, al privato. E tra l'altro questa è una parte del danno, il mancato guadagno, perché lì, proprio perché non si riusciva ad entrare nell'immobile, e lo dice lo stesso giudice, non si è potuto neanche verificare l'ammontare dei danni provocati all'immobile stesso, che, dice la sentenza, presumibilmente sono ingenti. Speriamo che questo sia un monito per il futuro, perché per non futuro, devono più continuare queste situazioni. Io la ringrazio, grazie a Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, per essere stato con noi. Ora, mi sarebbe piaciuto avere il tempo, ma non lo abbiamo, a volte siamo stretti, di trattare questo tema, una storia che è raccontata oggi dal quotidiano La Repubblica, di un test di medicina nel quale, compresa la domanda, quali delle seguenti percentuali rappresenta la migliore stima del verificarsi dell'omosessualità nell'uomo? Una domanda che ha fatto imbestialire le associazioni gay, che dicono... è di una gravità inaudita, ci considerano malati. Le cose sarebbero da spiegare un po' meglio, e proprio perché sono da spiegare un po' meglio non riesco, lo ringrazio, e magari, insomma, se vuole salutare gli ascoltatori, poi magari ci torneremo su questo tema. Andrea Stella, già presidente della commissione didattica del CUN e ora presidente del consorzio interuniversitario di sistemi integrati per l'accesso, che si è occupato di questo test. Professor Stella, buongiorno. Ce l'abbiamo in linea? Non riusciamo e non abbiamo il tempo di parlare con il professor Stella. Io lo ringrazio e magari su questo tema potremo tornare nei prossimi giorni. Noi ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade. Ci ritroviamo alla fine e dopo Mario Platero per i saluti.